Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Andiamo letteralmente all'altro capo del pianeta oggi per portarvi la testimonianza di una giovane studentessa che ha scelto, pensate, di viaggiare fino in Sudafrica per affrontare l'esperienza di uno scambio alle scuole superiori. Dal nostro freddo inverno ci sposteremo quindi nell'estate dell'emisfero australe. E lo faremo per portarvi anche oggi tanti utilissimi consigli su come internazionalizzarvi fin dal periodo della formazione e approdare così prima all'università, poi nel mondo del lavoro con un curriculum realmente globale. Le preziosissime indicazioni di Federico Fabiani di Scambi Europei su lavori e tirocini all'estero daranno il via alla nostra puntata settimanale che vedrà un'ulteriore iniezione di opportunità da cogliere al volo in Job Abroad, dove tornerà a farci compagnia Alessio Romeo con le migliori e più aggiornate offerte di impiego nel mondo. A chiudere, come ogni ultimo sabato del mese, le vostre lettere e le vostre richieste di consigli, quelle che inviate tutti i giorni a generazionemobile@radio24.it. Continuate a farlo, siamo qui per aiutarvi. Tutto è pronto per il volo intercontinentale di Generazione Mobile, rotta verso sud, rotta verso il Sudafrica. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci porta nell'universo Brexit, a 6 giorni dall'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, con dati recenti relativi proprio all'immigrazione verso il Regno Unito. È rimasto sopra i 200.000 individui l'incremento annuo del flusso di immigrati oltre manica, ma in termini relativi il numero degli ingressi è calato a livello meno elevato da 16 anni. La contrazione ha riguardato in particolare gli arrivi dai paesi dell'Unione Europea. A rivelarlo sono i dati diffusi dall'Office for National Statistics britannico, confermando una tendenza in atto già da qualche anno. Nel complesso del 2019 il totale di cittadini stranieri stabilitisi sull'isola è salito di altre 212.000 unità, i cittadini comunitari in più si sono fermati però 48.000, la cifra più bassa dal 2003, con una riduzione concentrata soprattutto nei flussi dell'Europa centro-orientale, numeri invece più stabili dai paesi occidentali, Italia inclusa. Toolbox. Prosegue la collaborazione di Toolbox col portale Scambi Europei ogni 2 settimane. Segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro, volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Buon pomeriggio, Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Federico, oggi ci porti un paio di iniziative molto interessanti che partono dall'Italia e vanno verso l'estero. Per cominciare, inizierei dal bando del Ministero degli Affari Esteri col MIUR la CRUI per stage presso le sedi diplomatiche italiane oltre confine. Ci racconti meglio? Sì, come ogni anno appunto questa collaborazione tra il Ministero degli Esteri, quello dell'Università e la Ricerca e la Conferenza dei Rettori italiani offre 400 borse di stage da svolgere appunto o in ambasciate, in rappresentanze diplomatiche consolari o in istituti di italiani di cultura all'estero, quindi appunto in tutto il mondo. Sono rivolte queste borse a studenti universitari con età non superiore ai 28 anni e che abbiano un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2. La durata è di 3 mesi, che vanno da maggio a agosto 2020 in questo caso, ed è previsto un rimborso mensile di 300 euro più il riconoscimento di almeno un CFU per ogni mese di attività, e in alcuni casi è anche previsto l'alloggio gratuito. Sempre da parte del MIUR, come dicevamo, quindi dall'Italia, un'altra interessantissima opportunità per andare all'estero, stavolta appunto all'interno del mondo dell'istruzione. Nello specifico? Nello specifico si tratta di posti di lavoro per assistenti di lingua italiana all'estero per l'anno scolastico 2020-2021 in vari paesi europei. Si tratta di Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna. È richiesta una laurea specialistica e avere un'età inferiore ai 30 anni. La durata del contratto è di 8 mesi per circa 12 ore settimanali di insegnamento. Il compenso è variabile a seconda del paese di destinazione e la scadenza per candidarsi è il 20 febbraio 2020. Ci spostiamo adesso con te a Bruxelles, Federico, perché la Commissione Europea, come spesso fa, offre